edizione. Ancora ben svegliati da Anna Migliorati, le 6:13 minuti, la promessa la dobbiamo mantenere. Per chi ieri sera non era davanti alla TV, ve l'avevamo promesso, allora ecco com'è stato l'esordio di Michele Santoro. Caro Enzo Biaggi, caro Montanelli, so che siete molto in apprensione per me, so che siamo stati molto diversi, ma so che ci state seguendo con grande passione in questo momento. La verità è che non se ne può più di resistere. E secondo me ha ragione Monicelli. Bisogna fare una rivoluzione civile, democratica e pacifica. Anche perché come facciamo a dire ai giovani, guardate, accettate pure che una trasmissione come Anno Zero venga cancellata dai palinsesti, però nel nostro paese c'è il merito. Però nel nostro paese i migliori vanno avanti e soprattutto, attenzione, non bisogna essere violenti. Ma scusate, come facciamo a fare la predica ai nostri figli quando nel sistema dell'informazione non si vedono rappresentati con le loro idee, con i loro desideri e anche con le cose che ti piacciono? Ma vorrei usare un argomento molto razionale e usarlo proprio nei confronti di quei giornali e soprattutto dei lettori di quei giornali che io so che ci seguono molto, che continuano a definirmi un guru, un profeta, un martire. Io non sono proprio niente di tutto questo, sono soltanto una persona che cerca di essere quello che è, con la sua identità, con la sua professionalità, e di poter agire senza averci dei padroni che ti costringono a fare quello che vogliono loro. Prima edizione. Eccoci pronti con le pagine dei giornali, tanto economia naturalmente, le borse, il G20, ma anche la politica, il futuro del governo a dominare le prime pagine, che scelgono grosso modo tutti gli stessi temi d'apertura. Cominciamo col Sole 24 Ore. Draghi taglia i tassi, volano le borse. Questa la notizia che sceglie il Sole 24 Ore, ma Milano guadagna il 3,23%, il neo presidente della BCE riduce il costo del denaro, un banchiere per la crescita, svolta la BCE, è il commento in prima pagina sul Sole 24 Ore di Alessandro Merli. L'immagine sul quotidiano è però un'altra, ritrae la Merkel, Obama, Sarkozy che chiacchierano tra loro e alle loro spalle c'è Silvio Berlusconi. G20, più risorse dal Fondo Monetario per la crisi dell'Eurozona, Roma attui le riforme. Così ho il Sole 24 Ore, a centro pagina fiducia sul piano per lo sviluppo e poi lo sguardo anche alla politica italiana, nuove defezioni nel PDL per il governo maggioranza a rischio. Stefano Folli, il punto, nome e voce nota anche di Radio 24, il titolo del suo commento questa mattina è: lo scontro per ora è fra due debolezze. La Repubblica, ultimatum dei grandi all'Italia, al G20 gelo di Obama, Merkel e Sarkozy, sì al piano se rispetta i tempi, il Fondo Monetario offre aiuto ma Roma frena. L'immagine è la stessa, la trovate più o meno su tutti i quotidiani, con la Merkel, Obama e Sarkozy e alle loro spalle il premier italiano Silvio Berlusconi. Anche qui attenzione alla politica interna, altri 5 via dal PDL, la maggioranza non c'è più, Napolitano valuterò gli sviluppi, Scajola, la svolta o Silvio lasci. Il Messaggero, tassi giù, volano le borse, G20, richiamo all'Italia, stessa immagine scelta anche dal quotidiano romano, mossa di Draghi, costo del denaro tagliato dello 0,25%, i grandi chiedono all'Italia, applicate il piano, anche qui il commento è il momento delle scelte coraggiose. E poi a centro pagina, Berlusconi, maggioranza a rischio, il centrodestra torna a quota 314, ma crescono gli indecisi, così il Messaggero questa mattina. L'intervista del Messaggero a Massimo D'Alema, che dice: subito il governo d'emergenza. La Stampa, l'attenzione torna ad essere anche qui su Draghi. Draghi taglia i tassi, borse ok, il capo della BCE, i governi siano inflessibili, patto Obama-Sarkozy. Così anche la stampa, dove l'immagine scelta per la prima pagina è diversa perché campeggia qui Mario Draghi, il nuovo presidente della Banca Centrale Europea. E poi anche qui dicevamo attenzione alla politica, fiducia sulle norme anticrisi, ma Berlusconi perde pezzi. Altre segnalazioni e altre notizie dai quotidiani di oggi. Allora restiamo proprio sulla stampa, che ci segnala innanzitutto il maltempo, i 1000 evacuati, le 5 terre in fuga dalla paura, il titolo della stampa, i superstiti dell'ultima alluvione costretti a lasciare le case, allerta per ancora 48 ore. E poi c'è un'altra notizia riportata questa mattina dalla stampa, una sentenza a Strasburgo, fecondazione un diritto poco europeo. In Italia è vietato il ricorso a ogni tecnica di procreazione assistita di tipo eterologo, sia essa in vitro o in vivo, così la sentenza di Strasburgo. La stessa restrizione è adottata solo da Lituania e Turchia, così dicevamo sulla stampa. Torniamo sul Messaggero, che invece riporta un'altra notizia che non troviamo sulle altre prime pagine dei quotidiani. Gli studenti in corteo ieri nella capitale, cariche e polemiche. Gli studenti erano quelli delle scuole superiori. La Repubblica, il processo online show finale di Michael Jackson. Oggi c'è la sentenza attesa oggi, orario americano, quindi nel tardo pomeriggio italiano. Ebbene, per seguire live, istante per istante, parola per parola, la ricostruzione delle ultime ore della sua agonia, per sapere tutto quello che è successo, ci sono collegati in diretta TV, siti internet, radio, iPhone e quant'altro. Oggi il processo online show finale, così scrive La Repubblica. Che restando sempre negli Stati Uniti riporta anche un'altra notizia, la marcia di Oakland. Ieri ve l'abbiamo detto anche noi, in queste ore era bloccato uno dei più importanti porti americani per le proteste degli indignati. L'America riscopre lo sciopero, il reportage questa mattina sulla Repubblica. Le 6:23 minuti, così le prime pagine dei quotidiani. Vi daremo altre notizie tra poco, perché abbiamo un altro appuntamento adesso. Ci trasferiamo a Roma noi per parlare di cinema. Ci aspetta Marta Cagnola. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Mancano poche ore alle 18:30 inizio della cerimonia di premiazione del 6° Festival Internazionale del Film di Roma. Abbiamo visto tanti bei film, generalmente molto alto il livello della selezione, ma è innegabile il fascino del Marco Aurelio non è ancora tale da suscitare tanta attesa. I giornalisti infatti hanno già cominciato ieri a disertare un po' l'auditorium Parco della Musica. Ultimo motivo d'attrazione, l'arrivo di quello che ormai è un'abitudine, Richard Gere, che ieri si è detto innamorato dell'Italia e di Roma, ma le sue dichiarazioni sembravano meno rituali e ingessate di quelle di tante star hollywoodiane. I think the first international award I ever received as an actor was the David di Donatella. Days of Heaven. Il primo riconoscimento internazionale, ha detto, l'ho preso qui a Roma, ha ricordato il David di Donatello proprio per Days of Heaven, il film riproposto ieri sera. Oggi riceverà il Marco Aurelio all'attore, non alla carriera, mi raccomando, perché ha detto quello sarebbe da dinosauri. Per il resto, già qualche bilancio l'ha fatto il direttore Piera De Tassis. Francamente sono molto tranquilla. La cosa che volevo era chiudere bene l'anno, chiudere bene il mandato. Io penso che ci siamo faticosamente e con tanto lavoro guadagnati il rispetto. E al ministro Galan, che vorrebbe Roma soprattutto come mercato, la De Tassis ha risposto che non si può scindere dal festival. Sicuramente la parola mercato avvince molto, è più, come dire, di rapida e facile comprensione, no? Sembra sempre bella, sembra sempre progressiva, progressista e fortunata. Secondo me invece non significa nulla se non si ragiona sull'evento che lo accompagna, che non significa non ragionare sull'evento, o non immaginare che lo si modifica. Quando mi chiedono la differenziazione di Venezia, devo dire che più differenziati di così sarebbe difficile. Dicevamo quindi in serata l'appuntamento con le premiazioni. Tra i favoriti il film francese Una vita migliore di Cédric Kahn, ma anche The Eye of the Storm di Fred Scipisi e il tedesco Hotel Lux. Tra gli italiani potrebbe avere chance La Kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo, ma anche Pupi Avati con Il cuore grande delle ragazze. Tra le sorprese che potrebbero arrivare dalla giuria internazionale presieduta da Ennio Morricone, magari un premio a Isteria di Tania Wexler, un film sulla nascita del vibratore. Vi aggiorneremo nei prossimi GR24 e da Roma per il momento è tutto. E grazie intanto alla nostra Marta Cagnola. Altri aggiornamenti, ve li avevo promessi, due notizie. Innanzitutto le hanno appena battute le agenzie, parlavamo poco fa degli Stati Uniti che riscoprono lo sciopero con il blocco del porto di Oakland. Ebbene, appena stato diffuso un bilancio, oltre 100 arresti e 8 feriti. L'ultimo bilancio degli scontri ad Oakland tra le forze dell'ordine e i manifestanti, durante la manifestazione un centinaio di militanti incappucciati e vestiti di nero si sono allontanati dal resto del corteo, distruggendo tutto quello che avevano davanti. La polizia ha risposto con cariche lacrimogeni e proiettili di gomma. Dicevamo 100 arresti. Altra notizia dal Giappone: il governo giapponese ha dato poco fa il via libera ad un aiuto pubblico di 900 miliardi di yen, sono 8,3 miliardi di euro, al gestore della centrale di Fukushima, la Tecno. Serviranno per finanziare parte degli indennizzi alle vittime dell'incidente nucleare. Ma guardiamo anche i quotidiani stranieri. Wall Street Journal, che pensa, cosa vede dell'Italia in questi giorni con, dicevamo, i grandi che fanno il pressing su Roma. Il G20 punta ad aiuti per l'Italia, scrive tra l'altro il Wall Street Journal, e poi si sofferma sulla nostra politica interna. Defezioni chiave rischiano di dare un colpo a Berlusconi, la ribellione in atto all'interno al partito del Premier rende difficile guidare la lotta per la crisi del debito, così ci vede il Wall Street Journal. Il Financial Times, l'apertura è dedicata alla Grecia, ma si parla anche di Draghi, dell'italiano Draghi alla guida della BCE. Draghi lancia la crescita con il taglio dei tassi e l'editoriale del Financial Times oggi è dedicato proprio a Mario Draghi, con Draghi un eccesso di disciplina, così il Financial Times. Ma torniamo alla nostra TV. Ancora Michele Santoro, ve l'abbiamo promesso che vi avremmo fatto ascoltare vari stralci di quel che è andato in onda ieri sera, e allora vi facciamo sentire un altro Santoro polemico un po' con tutti. Avere un sistema libero non è un problema di destra o sinistra, è un problema che vale per tutti. Ora, la cosa interessante è che di fronte alla cancellazione di uno dei principali programmi della nostra televisione, comunque lo si valuti, la reazione del sistema dell'informazione e anche del sistema dei partiti è stata fiacchissima, anche dei partiti d'opposizione. E che cosa è successo? Che 100.000, dico 100.000 persone, hanno acceso le luci di questa sera. E siccome hanno acceso le luci di questa sera 100.000 persone, queste 100.000 persone che stanno facendo questa rivoluzione civile e democratica che stiamo vivendo, si possono convincere che a questo punto possono accendere tutto quello che vogliono. Possono accendere Celentano, possono accendere Daniele Luttazzi, possono accendere Serena Dandini, possono accendere finalmente la RAI, che si sta spegnendo lentamente, ed avere un vero servizio pubblico. Prima edizione. Le 6:35 minuti, puntuale, arriva Italia in controluce. Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biacchiesi. Oggi è il 4 novembre. Silvia Calamandrei è nipote di Piero Calamandrei. Proprio in questi giorni Chiare Lettere fa uscire un importante libro di suo nonno, Lo Stato siamo noi, in cui si dice che politici, deputati e senatori si dovrebbero chiamare impiegati del loro partito. Sì, è uno scritto, una noterella sul professionismo parlamentare scritta da Calamandrei negli anni 50. Calamandrei si preoccupava che i deputati e senatori eletti rappresentassero effettivamente i loro elettori. Già negli anni 50 c'era una preoccupazione che la politica non diventasse professione staccata dalla rappresentanza democratica. Ora nel terzo millennio ci troviamo con una casta della politica che si è consolidata e che suscita parecchie preoccupazioni nei cittadini. Ma lo Stato siamo veramente noi cittadini e cosa possiamo fare per migliorarlo? Ma diciamo che lo Stato siamo noi è una auspicio, una petizione. Calamandrei sottolinea l'elemento della partecipazione alla politica, si preoccupa sempre della disaffezione, del pericolo dell'indifferentismo e chiama i cittadini a una partecipazione, a una consapevolezza di quelli che sono i propri diritti iscritti nella nostra Costituzione. Calamandrei vedeva la Costituzione come un patto nato da una grande stagione di risveglio del popolo italiano alla libertà e voleva che queste libertà conquistate con la resistenza e nella guerra antinazista fossero, diventassero, diciamo, sangue degli italiani. Si augurava anche che la scuola educasse a questa partecipazione alla cittadinanza, pensava che la scuola fosse l'organo più importante tra quelli della Costituzione perché è una scuola che dovrebbe offrire gli strumenti per rimuovere tutti quegli ostacoli alla disuguaglianza tra i cittadini e creare consapevolezza, coscienza per poter usufruire dei propri diritti. Era Italia in controluce, torniamo oggi 13.30 Radio 24. Grazie a Daniele Biacchessi. E noi, altra promessa da mantenere questa mattina, torniamo nelle zone della Liguria duramente colpite dall'alluvione. L'allerta è scattata alle 6 di questa mattina ufficialmente, sono le 6.38 minuti, resta fino alle 12 di domenica. Lasciare precauzionalmente le proprie case sono stati centinaia di abitanti dei paesi più colpiti in Val di Vara, Borghetto, Vara, Vernazza, Monterosso. Negli altri centri alluvionati delle Cinque Terre i sindaci hanno predisposto piani di evacuazione e allerta anche a Brugnato. Saluto Luca Natale. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno del comune di Brugnato. Domanda d'obbligo, come sempre, innanzitutto la pioggia è arrivata, come sta andando questa mattina? Ma guardate, finora è piovuto a sprazzi. Di tanto in tanto e in questo momento non piove. Stiamo guardando tutti verso l'alto, anche fisicamente verso i paesi che stanno più a monte, perché come sapete poi diciamo il problema è arrivato da lì con i rovesci d'acqua che si sono incanalati in modo molto irregolare. Ci sono le squadre di soccorso, ho parlato 10 minuti fa con Filattiera, con Walter Filattiera, che è allertato con i gommoni per ogni evenienza, e in questo momento la situazione è tranquilla e speriamo che, insomma, che continui a essere tranquilla, ecco. La speranza c'è. Si è parlato di una forte pioggia in arrivo. La paura, ci dicevi, è soprattutto che dalla montagna ne cada ancora fango. Sì, diciamo, sì, perché il 25 il fango è arrivato dall'alto, dal comune, dalla zona del comune di Rocchetta, invadendo i corsi d'acqua che peraltro erano stati manutenuti 15 giorni prima, ecco, quindi insomma sembra quasi che fino a che non comincia a piovere, e speriamo che non piova comunque con la forza, e credo che sia stata un'eccezione e spero che sia stata un'eccezione, c'è la speranza nei cuori di tutti che non sia neanche minimamente riportabile a quello che è successo, è questa la. Però l'organizzazione è stata capillare. Chi è rimasto da voi in paese? Beh, sono stati allontanati solo fortunatamente chi abitava nei primi piani, negli interrati, hanno trovato, diciamo, riparo in case di amici, qualcuno in agriturismo, affitta camere. Però insomma gli amministratori e i nuclei di pronto intervento sono rimasti assolutamente operativi per tutta la notte, ecco, anche se ripeto in allerta, pronti, perché poi l'allerta vera è scattata una mezz'ora fa e bisognerà vedere la giornata di oggi. Abbiamo sentito diversi sindaci, diversi assessori di diversi paesi delle Cinque Terre in queste mattine, sì. Tutti ci hanno detto che comunque gli interventi sono stati ben coordinati e sì. Siete d'accordo anche voi, anche a Brugnato? Assolutamente sì, c'è stata una buona organizzazione e un buon coordinamento. E questo sicuramente aiuta. Occhi sì. Al cielo, ovviamente, e torneremo ancora con prima edizione nelle Cinque Terre. Nel frattempo saluto Luca Natale che è a Brugnato. Buona mattina. Grazie a tutti voi, arrivederci, grazie. Doveroso davvero tornare ancora questa mattina nelle Cinque Terre, continueremo a farlo. È allerta maltempo, la Protezione Civile ha avvertito che la situazione non è da sottovalutare, però come abbiamo sentito per il momento fortunatamente la situazione è ancora tranquilla. Altrettanto tranquilla, non lo so, chiedo a Pollio Salimbeni, collega dell'agenzia Radiocor a Cannes, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, ci sono state tutta una serie di riunioni, anche ieri fino a tarda sera, anche qualche fuori programma. Oggi sarà la giornata decisiva, il G20 a Cannes. Quel che è emerso fino ad ora è un forte pressing dell'asse franco-tedesco sull'Italia, a cui si sono aggiunti anche gli Stati Uniti ieri sera. È così? Sì, a quanto hanno riferito le fonti diplomatiche nel corso della notte, la riunione dei leader dell'Eurozona, Berlusconi compreso, è durata fin verso le 2 del mattino. A un certo punto avrebbe anche partecipato Barack Obama, a dimostrazione dell'estrema tensione e vigilanza con cui il tema della crisi dell'Eurozona viene trattato da tutti i paesi del G20. Effettivamente sul tavolo c'è la possibilità di un intervento del Fondo Monetario con una linea di credito a breve termine per i paesi in difficoltà che non vogliono far la fine della Grecia, per intenderci, e quindi un intervento cautelativo per sostenere il finanziamento del debito sovrano. In sostanza un secondo fondo oltre a quello europeo del Fondo Monetario Internazionale per sostenere gli stati in difficoltà. Esatto, sì. Questo, il Fondo Monetario affiancherebbe in qualche modo l'intervento del Fondo Salva Stati europeo, e proprio c'è un pressing sull'Italia perché viene ritenuta il paese che più ne ha bisogno per frenare l'attività speculativa nel mercato del debito. Se si sfonda sull'Italia si può sfondare sulla Francia, con conseguenze che si possono immaginare di crisi dell'intera eurozona. C'è un però, perché questo fondo ci sarebbe se però il Fondo Monetario Internazionale potesse controllare un po' di più gli stati, ed è su questo che l'Italia storce il naso. Effettivamente sì, secondo le indicazioni che sono emerse nella notte, questo è il punto politico di fondo. Il governo ritiene di farcela senza un controllo stretto, un controllo esterno, insomma, che sarebbe un commissariamento. In sostanza, più soldi anche dal Fondo Monetario, però vi dobbiamo controllare, e questo l'Italia non lo vuole. Prima edizione. Torniamo a Cannes da Antonio Pollio Salimbeni, agenzia di stampa Radiocor. Antonio, le diplomatiche cronache riferiscono ieri sera, nella riunione che tu ci raccontavi è finita poi alle 2 di notte, di toni franchi e diretti verso Berlusconi da parte di Sarkozy, Merkel e Obama. Questa mattina ci sono delle immagini sui giornali, ti leggo il titolo della Repubblica: l'isolamento di Silvio tra i grandi, perde il sorriso e nessuno gli vuole parlare, il presidente americano lo ignora persino durante il pranzo ufficiale, costretto a origliare i colloqui della Merkel. È andata davvero così? Ma questo è quanto le immagini ci hanno restituito di volta in volta, quando le telecamere possono, all'inizio e alla fine delle riunioni ufficiali, possono cogliere i momenti, diciamo così, di colore, ma naturalmente questo non è colore, questo riflette è sostanza. Una situazione. Scusate? Dicevo, è sostanza alla fine. Esatto, è sostanza, riflette esattamente una situazione di isolamento politico in cui si trova il nostro Presidente del Consiglio. E questi toni franchi e diretti, di cui dicevo diplomaticamente parlano le cronache, quanto peseranno nelle prossime ore quando bisognerà tirare le fila? Pesano già nel corso del negoziato, in ogni caso è noto che da giorni si parla di un intervento del Fondo Monetario o cui sarà associato il Fondo Monetario per una vigilanza più stretta su alcuni paesi Eurozona, tra questi il primo candidato è l'Italia, ma nessuno lo dice ufficialmente, perché appunto si ritiene che da lì possa sfondare la speculazione creando un danno a tutta l'Eurozona. Vedremo oggi cosa ne emergerà dal documento finale e quanto saranno pesanti, come dicevamo, i pressing sull'Italia. Nel frattempo ti sei alzato molto presto per noi, ti ringraziamo naturalmente perché la giornata di lavoro sarà lunga, continuerai ad aggiornarci. Antonio Pollio Salimbeni a Cannes, buona giornata. Buona giornata a voi. Si alza sempre presto il nostro Alessandro Milan e quindi è qui con noi. Sì, abbastanza presto. Dipende poi dai punti di vista. Ognuno infatti ha il suo presto, insomma. E allora di sentito. Che parliamo? Oggi avremo tra l'altro il ministro Brunetta alle 8:30 al nostro ospite per parlare della situazione economica e di tenuta politica, perché sui giornali ormai si parla di si fanno le conte. Sì, in sfaldamento. Sono i giorni delle conte. E no, stavo usando un termine che non si usa in politica, dei tentativi di farti passare di qua e di là, vedi che perifrasi per dire quello che altri usano, dice compravendita di parlamentari, come se uno va al supermercato, no, però tentativi di farti passare di qui e di lì, diciamo incentivi. E poi parleremo anche di altre cose sui giornali. Per esempio è rispuntato, questo lo fa sapere Repubblica, Massimo Tartaglia. Ti dice qualcosa questo nome? Ti ricordi il Duomo, la statuetta che scagliò sul volto del premier Berlusconi? È tornato a casa. Ha ancora un regime di semilibertà, fu tra l'altro assolto perché giudicato incapace di intendere e volere, dice non incontrerò il premier, devo fare ancora tutto il mio percorso per cercare di recuperare, ho razionalizzato al 50% quello che ho fatto in quella, però si dice ovviamente pentito in quell'aggressione molto violenta nei confronti del presidente del Consiglio in Piazza Duomo a Milano, sì, certo. Sì, esatto. E poi insomma tante altre cose, altre curiosità le vedremo dai giornali. Perfetto, allora tra pochissimo, allora tutto il resto naturalmente continueremo anche a raccontarvelo noi con GR24, avete già sentito un'anticipazione da Cannes, c'è molto da dire perché le riunioni davvero si sono concluse a tarda sera, alle 7:20 poi come sempre la rassegna stampa, alle 8:20 gli ospiti con Alessandro Milan. Ci fermiamo qui, nel frattempo restano Peter Bescapè naturalmente e Viola Bottoni, noi ci sentiamo tra poco, buon venerdì ancora, buona giornata da Anna Migliorati.